English 24. Un saluto da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. La scorsa settimana abbiamo dedicato il nostro primo appuntamento della stagione a una serie televisiva che amiamo molto e che è Spartacus. Purtroppo, solo un giorno dopo la messa in onda della nostra trasmissione, è venuto a mancare l'attore principale Andy Whitfield. L'avevamo sentito per qualche istante in uno dei nostri estratti. Era malato, sapevamo che si stava riprendendo, invece purtroppo è mancato a soli 39 anni, era bellissimo, bravissimo e noi vogliamo ricordarlo. E quindi abbiamo deciso di dedicare a lui tutta questa puntata di English 24. Abbiamo recuperato quella che, Giulia, probabilmente è la sua ultima apparizione pubblica. Sì, decisamente, perché era in una specie di interregno in cui aveva fatto un primo ciclo di cure e i produttori, che lo volevano tantissimo, avevano costruito un prequel per dargli tempo di curarsi. Lui era pronto a iniziare le riprese per la seconda serie e in realtà non è mai riuscito perché il cancro si è ripresentato. Era al Comic-Con, questa famosa fiera dove ci sono tutti gli appassionati di tutto ciò che ruota intorno ai fumetti, le graphic novels, e questo anche tutti questi incontri tra appunto il mondo del fumetto e il cinema o i video, e Spartacus è un po' anche questo. Allora iniziamo il nostro omaggio a Andy Whitfield ascoltandolo quando lui raccontava di come costruiva il suo Spartacus. Andy, did you do any research for your character? Because obviously there's, you know, some things written. Yeah, I mean, there's a kind of guideline about Spartacus, but I guess the most useful stuff was like the film, like the Kubrick film. I did what I could, but really it was just about following the fantastic writing and just trying to piece the moments together, because the rest kind of took care of itself, I think. Eccolo qui, c'era l'intervistatore in questo panel tutto dedicato a Spartacus che gli diceva: fai delle ricerche per il tuo personaggio, e lui raccontava come costruiva questo Spartacus. Sì, ed è tra l'altro interessante vedere l'uso di research, perché research naturalmente vuol dire ricerca, però in italiano noi diremmo: hai fatto delle ricerche per il tuo personaggio. In inglese si usa quasi sempre al singolare. E avevamo già detto la scorsa settimana che insomma questo personaggio è abbastanza misterioso in realtà, quindi le ricerche che si possono fare sono un po' particolari. Sì, c'è un po' di storia naturalmente, ma soprattutto è divertente questo, è molto, secondo me, sintomatico della nostra cultura contemporanea. Che cosa si fa? Si guardano i film precedenti, quindi the most useful stuff. Stuff è, che è scritto STUFF, e non vuol dire naturalmente stoffa, per esempio, è roba, e usato un po' come, soprattutto anni fa, mi ricordo si usava molto il termine cosa, ecco, quindi la cosa più utile in questo caso. Però stuff in americano e gli inglesi anche lo usano ancora molto per appunto indicare un qualsiasi corpo di notizie, di cose da fare, o in questo caso appunto di cose da guardare, perché poi lui dice the most useful stuff, quindi la roba più utile erano i film, was the film, like the Kubrick film, il famoso Spartacus di Stanley Kubrick, naturalmente. E poi una cosa che fanno spessissimo gli attori anglosassoni: ringraziare gli autori. Sì, devo dire che qui viene fuori, io e la Marta siamo grandi fan di Andy Whitfield e di Spartacus, però davvero sembrava un attore che, nonostante questo incredibile successo raggiunto, forse perché lo ha raggiunto a 37 anni compiuti, non era poi, non aveva niente di arrogante, anzi appunto ringraziava gli altri prima di prendersi i meriti per sé. E quindi dice su Spartacus c'era enough framework, naturalmente una cornice, ma non troppa, not too much that you can't interpret your own way. Però dice alla fine it was just fantastic writing, quindi tutto quello che dovevano fare era leggersi bene il copione e poi piece the moments together, mettere insieme questi momenti. Tra l'altro un'espressione molto carina, piece, proprio mettere insieme, come in un puzzle, in un puzzle, che una volta un ascoltatore mi ha detto che devo dire puzzle e non puzzle, quindi mettere insieme i pezzi e fare questo grande mosaico che è Spartacus. E che noi diciamo puzzle da bambini. Ma torniamo al nostro omaggio a Andy Whitfield, perché lui era anche molto simpatico. Ecco come raccontava se si faceva male oppure no in questa serie così ad altissimo impatto fisico. Do you ever get onset injuries? Does that ever happen? Or? I mean, you do. You take hits. They had this, you know, a lot of it was slow motion, so you could see that it was, if it wasn't me, it wasn't me. So I ended up doing a lot of the falls and a lot of the spinning in the air and the harness work, and it kind of hurts, but you want to do it again and again. You know, like it's, you see the playback on the monitor and it just looks fantastic, and it seems worth going that extra one for. So, no serious injuries, just kind of a few bruises along the way. Now, the thing in the pit, didn't you really punch that guy in the face? Yeah. In the slow motion? Yeah, he's like 6'8", kind of mixed martial artist, and he's like, "You can hit me in the face." I'm like, "No." No, I can't. Eccolo qui, lui faceva ridere il pubblico perché raccontava di un aneddoto: si era trovato di fronte a un altro personaggio un po' particolare, doveva colpirlo. E cosa ha deciso di fare? Sì, questa è la famosa Thing in the Pit. Non so chi di voi ha visto la serie, io praticamente ormai la so a memoria. Però all'inizio della sua carriera di gladiatore, Spartacus viene punito e anziché combattere nell'arena lo mandano a combattere in una specie di inferi dell'arena, che appunto è il pit, che letteralmente è la buca. E qui ci sono dei personaggi assolutamente che combattono senza regole. Quindi appunto questo guy che was 6'8", quindi 6 piedi e 8 inches, non so bene quanto sia, ma direi circa 2 metri. E ovviamente era uno che era un attore, quindi gli dice he's like, sappiamo che dire I'm like, you're like vuol dire mi fa, è un po' la traduzione di mi fa e io gli faccio, quindi mi fa you can hit me in the face, puoi darmi un pugno in faccia, perché la scena prevedeva questo, che Spartacus lo colpisse proprio in faccia, e lui gli dice no I can't, e dice non credo che sia una buona idea, perché comunque per quanto attori chi ha visto la serie lo sa, sono molto realistiche certe scene, quindi l'idea di colpirlo forte, magari questo così gli viene un raptus e lo colpisce per finta ma non per finta, e Andy Witch dice no I can't. E comunque nessuna seria onset injury, cioè non si sono fatti mai davvero male. No, dice just a few bruises along the way, mi sono sbucciato qua e là durante queste scene di combattimenti, perché poi appunto li vedete quando lui dice siccome molto è in slow motion, quindi al rallentatore, if it wasn't me, you could tell it wasn't me. Cioè lui dice in una scena così, insomma, uno spettatore che non è sciocco lo vede se non sei tu, sei una controfigura. E lui non voleva questo, quindi ha pagato questo fio di few bruises, un po' di sbucciature. L'abbiamo detto, Andy Whitfield, scomparso la scorsa settimana, era molto probabilmente agli albori di una bellissima carriera, perché aveva appena raggiunto il successo. E quindi gli si chiedeva che cosa avrebbe voluto fare, da quali personaggi sarebbe stato attratto, perché appunto aspettavamo che potesse fare grandissime cose. Allora ascoltiamo quest'ultimo estratto di questa intervista a Andy Whitfield. I'm attracted to films where my character is the name of the film. Yeah. I don't know. I love the fact that there's been this era of kind of action stuff without that kind of emotional heart, and I think it works so much better when it's there. So why wouldn't you have it? Why wouldn't you have it all? Why wouldn't you have the investment of the characters and those relationships, and it be entertaining and an action thing? You know, it's kind of my ultimate job, this. So, well done, Steve. Right back at you. Alla fine c'è questo gioco di rimandi, lui aveva accanto a sé uno degli autori della serie, allora si sono fatti un po' di complimenti, diciamo così. Anche la scorsa settimana avevamo sentito come raccontavano che fosse un bellissimo lavoro di squadra. E ancora una volta Andy Whitfield simpaticissimo, perché la risposta al suo da quale tipo di personaggi sei attratto, secondo me è stata fulminante. Sì, tra l'altro qui vediamo una di quelle cose che diciamo sempre fanno capire se uno ha dimestichezza con l'inglese o semplicemente traduce dalla sua lingua. In inglese si dice to be attracted to something, mentre noi diciamo essere attratti da qualcosa, loro dicono essere attratti a qualcosa. Quindi I am attracted to films where my character is in the name of the film, quindi dove il nome del mio personaggio è il nome del film. Questi sono i film che idealmente avrebbe fatto, e naturalmente avete sentito la risata del pubblico, perché poi credo che queste battute, che in fondo sono anche molto semplici, però se, siccome lui l'ha detto con grandissima serietà, come se si apprestasse a dare una risposta seria, e poi la risposta era questa, tutti questi fan che erano lì al Comic Con sono giustamente scoppiati a ridere. E poi più seriamente lui diceva gli piaceva questo mix tra qualcosa di fisico, ovviamente lui avendo questa fisicità prorompente, questa attitudine a una recitazione molto fisica, ma non solo, perché evidentemente aveva anche grande cuore, grande sensibilità. Sì, perché c'è stato questo periodo quando l'action stuff, questa cosa cose che abbiamo visto prima, quindi tutto quello che era di azione, non aveva questo emotional heart. Qui veramente, cioè, un uomo che parla di un cuore pieno di emozioni, insomma, non soltanto emozioni, non soltanto cuore, ma cuore pieno di emozioni. Andy era un grande. E lui dice, beh, invece se ci sono tutte e due le cose, it works so much better, funziona così meglio, così tanto meglio. Why would you have it? Perché non dovresti avere tutto? Why would you have it all? Cioè sia l'action che i characters molto complessi, le relationship and entertaining, and of course the action thing. E insomma lui dice, e qui poi conclude con una cosa che forse insomma adesso suona un po' profetica, dice, questo è il mio ultimate job, che può voler dire il mio lavoro ideale, il mio personaggio ideale, però purtroppo assume appunto anche un significato un po' diverso, perché è stato ultimate naturalmente non si può tradurre con ultimo, però è quello definitivo, e purtroppo è stato poi davvero così. E si conclude qui il nostro omaggio a Andy Whitfield, un attore che abbiamo amato moltissimo e che purtroppo è scomparso la scorsa settimana. È la conclusione anche della nostra puntata di English 24. Ringrazio Fabio Cantadori in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. L'augurio di una buona serata.